Quando fammela, a tempo perso. adesso. Infatti avevo una mezza intenzione di portargliela, ma non c'ho manco il numero di telefono a chiamarlo, dai. Aspetta, poi dopo quando mi fermo al quadrato glielo dico se passa a casa ritornando e se la ritira. Ah, vale, te incontro, intanto lui va via alle 7:30 già, fai come ti dico io, in questo periodo c'è anche poco lavoro. Pescia non hai, le radio ce li hai, gliela lasci, c'ha questo problema, mettimela a posto, non si batte ciglio, voglio la radio a posto, e gliela dai. Chiamare a te per mandarla da quell'amico tuo, a vedere se me la faccio. Devo telefonarle perché penso che faccia anche barattini, penso che... Ma bravo, bravo, ecco l'amico di Massimiliano, capito, Ciccio Cobra, quello è bravo veramente perché quelle radio le conosce, le modifica, le fa, cazzo mandala da lui, quello fa HF, capito, io posso chiamarlo ma non so se te la fa, ma Ciccio Cobra è bravissimo. Ehi, adesso vedo, ci ho già speso 40 euro in pizzi. Tra spedirla e tutto quanto mi viene una cifra. Già, fai come ho fatto io, io ne ho riparato una e non la posso vendere perché sennò ci rimetto. Se quella te la devi tenere, ti ne affutti nuda. Ok, quanto ci spendo? Altre 100 euro, non me ne affutti nuda, 150, non me ne frega niente. Io ci ho speso 180 euro per gli 820H per metterla a posto. E ti dico che era in mani buone, in mani buonissime, però non ci è riuscito perché era troppo complicato il lavoro. L'ho mandata al centro assistenza e me l'hanno restituita in garanzia come nuova. Io pago 280 euro, però non la vendo perché altrimenti quanto cazzo la devo vendere? Quella se tu ritieni di tenertela perché è nuova, la conosci, eccetera, io ce l'avrei buttato i soldi sopra, me l'avrei tenuta. E adesso quello, adesso la porto a Vittorio a vedere se me la fa, se me la fa, sempre che me la faccio. Penso di sì, gliela lasci, cioè, guarda, fretta non ne ho, non me la dare fra un anno, però mettila sotto quando c'è il tempo, me la controlli e me la metti tutta a posto. Nel caso ti dice di no, guarda, contatta a Massimiliano e la mandi da Ciccio Cobra, ti farà il numero di telefono, tutto, te la imballi bene, già sai fare le cose, e la mandi a lui, e tu stai pur certo che quella radio torna nuova come prima. Che cartoni usavi tu per mandare quelle radio là particolari, li compravi, non lo so. Guarda, ti prendi una scatola normale, robusta, tu che conosci i supermercati, eccetera, poi la involgi tutta col mille bolle, senza mettere cugna né niente, la involgi bene col mille bolle che lo vendono, e boh, e la copri bene, la tiri bene, la, che non si muova la radio. Vabbè, adesso vedo. Anda bene, vabbè, già ne ho di radio, adesso non c'è problema. Cava cava. Io adesso sono in macchina e sto girando, adesso vediamo se Vittorio me l'accende questa radio, se no se la piglia nell'occhio. E se no fai come ti ho detto io, ascoltami, in modo che sei tranquillo, la mandi a una persona competente, capito? Perché tutti siamo bravi, ma purtroppo l'attrezzatura non ce l'abbiamo per fare determinate cose, senza offesa per nessuno, è così e basta. Capito? La mandi a Ciccio e tu vedrai quella radio ti ritorna che oi. Adesso faccio un giro, dai. Vabbè, vedi tu. Beh, qua ma ne mangiato, hai. Natali. Chi è quest'altro cocco umano? Domani mattina consegnerò la radio a Anthony, così me l'ho tolta a mezzo alle balle, e buf. Chi è questo Anthony? Mattonello. Mattonello Ius? Mattonello Pomponio, domani le consegno 140. Ah, lo consegni, ho capito. Ehi, sì, è già pronto. Domani glielo consegniamo, infatti sto usando l'altro, il mio. Almeno mi sono fatto lo spazio, mi sono rimesso le cose in ordine, questo era sempre mezzo ai piedi per tenerlo acceso, per provarlo, è perfetta, è nuova quella radio. Speriamo che la tenga, vabbè, sia 80 che gli ho dato io, l'ha tenuto 10 anni, quindi. Vabbè, succede che magari ha bisogno di venderla, poi se lo riprende. Vabbè, però... Mai non le trovi così, quella era la mia, come il C80 lo stesso, non gli ha mai creato problemi, quella era la mia, prima era gliela ho fatto fare un generale è perfetta in tutto, bella, allineata, ordinata e veramente a posto. Va bene, ok. Dove sei? Che zona sei? Sono Mattatuio. Mattatuio? Ex Mattatuio, dai. Dove c'è l'istituto zooprofilattico. Ho capito, ho capito. Siamo sempre con quella radio lì, cosa c'è in macchina? Il magno? K. S9, sì. S9, 9,5, 9,10, 9. Già va bene. Sì, il magno già va bene, sì. Vabbè, con la bottega che va, bisogna allineare, vai. Ma c'è anche una serata che dura a casa. Lo metto fisso lì. E qua ci metto qualche altro apparecchio. Lì ci avrei messo anche il superstar già. Tanto lo usi poco. È omologato, ci mette il superstar con quel microfono che gli hai abbinato, c'è benissimo. C'è di una fuga. Ho fatto un giro, uscioni a Dante, quello che lo sfrutti a casa, che è una radio bella anche quella. Ah, il superstar c'ha il microfono suo originale qua. Non ne ho abbinato di microfono, c'ha quello originale. Tanto c'è bene. C'è un po' bene con la radio. Lo so, poi anche le bande laterali, c'ha tutto, capito? Ha tutto quanto. Lo so, ce l'ho avuto io. Ce l'ho Valerio. Però è Colt, quello è Colt. Bellissima quella radio. Solo io non ne usavo, quindi lavorato a lui. Radio, lo conosci questo che c'ha? Chi è? Non lo so, l'ho visto già due volte. Un appunto grigia con l'antenna di lato. Un appunto grigia con l'antenna di lato? Ma non è anche a me, ma non lo so chi è. Con la magnetica. Non lo so chi è già, non lo so. È parcheggiata vicino a cosa, come si chiama? A Niulu, quello che mette le gomme. Parcheggiata vicino a Niulu. C'è una roba di fuori, non lo so. Ma non penso, l'ho visto già due o tre volte a Sassi. Perché gente, ma non sarà Saverio? Non lo so, non lo so se Saverio. Oggi non si è sentito per niente, non lavorava oggi. Non lo saccio. Mi sono partorito la moglie di nuovo. Non è andato a buttare il palame. Ah, è vero che c'è anche, sì, va anche a pescare. Non lo so già. Ma l'hanno letto l'altro giorno, però non lo so chi è. Cava di cava. Natalino. Natali. C'è una propagazione allucinante. C'è qualcuno, cambio. Ola, attenzione, binario 10, cambio. Attenzione, su binario 10, cambio. Attenzione, binario 10, cambio. Ehi, dove sei adesso? Adesso sono dove c'è l'Inps. Dove c'è l'Inps? Ah, via Zaffarino. No. Via Zaffarino. Cosa l'Inps? Cosa sono di Zendi? Ma che non è l'Inps questo qua, questo che c'è di fronte all'ippodromo. L'Inps, sì. Allora, batta di via Rockefeller. Ma tu mi hai detto se via Zaffarino? Via Zaffarino non è nobile. Via Zaffarino c'è l'INAIL, sì. E mi stavi facendo venire il dubbio, ho detto, ma ho sbagliato io, boh. Iam. Chiava di gara, in girella sono, va. In girella sino alle 8, poi vado a prendere l'aereo e la direttore a casa. E cosa vai? In giro di casa, lui. A casa, no, noi giovedì andiamo fuori a cena perché uscire un po' mia moglie, che è sempre a casa. Dice, non fa problema di fare il pezzo. Adesso fino a giovedì stiamo a riposo, poi giovedì seguiamo d'ora. No, io sono andato venerdì notte. C'era musica tutto quanto, là, cioè stava bene. No, che operatore c'è? No, no, a Sassari, a Sassari. No, giovedì usciamo. Usciamo con Franco, mi viene qua. Franco però binario, Franco binario con la moglie, con l'ex collega di mia moglie, ci conosciamo la vita. Abbiamo deciso di uscire. Andremo a mangiarsi con la goglia pura, perché poi sabato vedi che sono impegnato, sabato c'ho gente, domenica sono fuori, c'è una gara. E fai bene, chi è che deve gareggiare? Filippo? Eia. No, Filippo non gareggia più. Cane di Mario, c'è una manifestazione a Pollo, a Ardala, al campo di calcio di Ardala. Ma gara di... ma ci vado. No, Filippo, lui, Filippo c'ha 10 anni, ho già, Filippo ogni settimana prende la pastiglia per artrosi, figurati. Cava. Ma gara di bellezza, Cla? Via. Di portamento, questa roba qua. Quello che c'ha lui, col preso a Canario però, non con quegli altri, col preso a Canario, grazie, manca la parola a quel cane. Immaginate, le mette gli occhiali per terra, nella custodia, prendi gli occhiali, vai e portali in macchina. Lui prende gli occhiali e si siede vicino alla macchina. Tu le apri lo sportello e lui te le appoggia sul sedile. C'è su Facebook questa donna che gli dice vai e prendimi le fave al cane. Vai a riprendere le fave, prendimi le medicine, riprende le medicine, gliele porto. Un'anziana, una donna anziana. Ma questo cane è così intelligente, guarda. Pure le medicine li porta. Punto fa con le mani e tutto. Se ti mando foto ti metti a ridere. Mi mette il berretto con gli occhiali, rimane fermo. Fermo, Se ti devo fare la foto, lui rimane fermo. Vedi la foto. Guarda, ma questo poi è bello. Bello. Bestione. 72 kg pesa, ma bello veramente, un bel cane. Ne ha vinto un altro, ne ha vinto un bel, aiuta, ne ha vinto un bel. Andiamo, si giattina, una giornata diversa, E quanto ne mangia di carne? Carne la mangia 2 volte alla settimana, solo 2 volte alla settimana, non mi ricordo se inizio e fine, il lunedì e il venerdì. Durante la settimana mangia solo e esclusivamente crocchette di pesce, ma crocchette di pesce a 70 euro all'usacco, quelle non ricordo cosa prende, ma buone. C'è un pelo catoluccio marrante bello. E anche io gli do le trainer, quelle al salmone, anche io gli do crocchette di pesce trainer, però le rimischio, capito? Non gli do solo crocchette, gli do pasta, crocchette. No, già, se le crocchette va bene, solo crocchette. Pasta, carboidrati, anche Filippo 2 volte a settimana, carboidrati, solo carboidrati. E poi solo crocchette di pesce, senza niente dentro. E anche lui c'ha un bellissimo pelo, solo che il marrone le sta già diventando bianco, perché è vecchietto, capito? E anche te se c'è la barbetta bianca dietro. No, Filippo già nelle cosce, dietro, capito? Già si vede il pelo bianco, vecchietto. Anche il muso non è più bello marrone. C'è già il pelo bianco e vabbè, 10 anni c'è, poverino. Ancora già è attivo, però prima o poi devo aspettare di tutto, perché sono cani che non durano molto. E non è detto, Claudio, dipende dai cani. Io una volta ho visto questo vecchio col cane, praticamente camminavano piano piano tutti e due. E mi è venuta la curiosità di chiedergli quanti anni avesse il cane. Mi ha detto 37 anni. E come fa un cane a avere 37 anni? Eppure il mio ce li ha. 37 anni, abbiamo vissuto insieme, stiamo invecchiando insieme, così ha detto. Già, tu mi insegni da rata a rata, ma i molossi 8-9 anni, Filippo ne fa 10 me. Filippo ne fa 10 ad agosto, capito? 10 10 anni, quindi grazie a Dio ancora c'è in forma, qualche acciacco ce l'ha, ma lui fa sempre la cura, lo metto il veterinario, per quest'altro sì che c'ha, e basta, però non è che fa dei salti mortali come anche prima. Beh, ho capito. Vabbè, dai, ma tu dicevi a 9 anni non ci sarà più, questo e quell'altro, invece vedi, già un anno in più sta durando, magari ti vive altri 5 o 6 anni. Poverino, se è sano, che muore di vecchiaia, sono contento, ma se prende qualche malattia mi dispiace, ho capito, però qua lui è rinato, è rinato, sta al sole, mi poco fa è entrato, era coricato al sole, nell'erba, nel prato, sta bene, adesso è entrato, si è coricato sotto la TV, nel suo materassino, boom, adesso sta sempre lì, adesso appena arriva mia figlia mi si alza, va, cioè, vado in gocco e a voi andate siete per raccucare. Oramai è abituato lui, dai, diciamo che è un cane che è abituato a stare in famiglia, come il mio c'ha 7 anni, mio lo stesso, non è che sia giovane. Lui da piccolino non è mai dormito fuori, sempre vicino a noi, a fianco al letto, quando era piccolo addirittura saliva anche sopra il letto, adesso non ce la fa più a saltare. Capito? Quindi lasciamo tranquillo e sereno, però da quando mi sono trasferito il primo mese è stato duro perché non ci stava, non faceva i bisogni, niente, era un po' spesato, poi ho iniziato a prendere confidenza con la casa, ho visto che entrava nelle stanze, usciva, annusava, faceva, ho iniziato a fare la pipì fuori, se no dovevo portare a guinzaglio fuori dal cancello, voleva uscire, si metteva vicino anche alla porta che voleva uscire. Adesso più libero, magari non era abituato, sarà stato un po' spesato all'inizio, ma poi si diverte di più. E anzi, io lo portavo anche quando c'erano i muratori, quando venivo a vedere i lavori, lo portavo, lo lasciavo sciolto, chiudevo il cancello, lo lasciavo sciolto, e un po' si stava abituando. Poi quando siamo trasferiti, è venuta la malinconia, capito? E l'altra volta l'ho portato io, quando lo porto da Monica a lavare, passo con altre macchine e passo a Carbonazzi. Come passo a Carbonazzi, cade sempre a Biden, dice cazzo, questa è la zona mia. Se ne rendono conto, vabbè, cla. Poi quando si hanno è così, dai, di affezioni, no? È come un figlio. Per me se non c'è, io ho rinunciato a tutto per questo cane, a tutto, non l'ho mai lasciato da solo, mai lasciato da solo, sempre con me, capito? Se ho potuto me lo sono portato, se no ho rinunciato sempre a tutto, io lo so, vabbè. Adesso vediamo quando non ci sarà più cosa decidiamo di fare, se prendere un altro o riposarmi un po'. Io sono una compagnia, tanto guarda, i molossoidi sono così, sono come avere un oggetto nel salotto, cavolo, stanno sempre cuccati, non ti rompono le scatole di nulla. Sì, Tyson ogni tanto mi porta la pallina per giocare, anche adesso, quando è annoiato mi prende la palla, la pallina e la porta per farmi per farlo giocare. Lui invece manco quello fa, niente. Ogni tanto mi ha una bottiglia di quelle di plastica, gliela schiaccio tutta e la prende, la butta, poi va, la prende, ma la buca, poi si mastica la plastica e non va bene. Sono pallina e loro, non ci ha mai giocato con queste cose. Con Gigi Votto, mi c'ha Gigi Votto, ogni tanto glielo butto, se lo mette nelle fuori, nell'erba, sta sempre morsicando, ma non gioca più come prima. Quando era cucciolo sia, va, non ha più gana. No, lui già è giocherellone, il mio già è giocherellone, gioca anche con le cagne, le fa giocare e poi cerca di saltarsene, sempre così fa, prima ne giocazzeggia, è l'onfio, vabbè, ha preso dal padrone. Allora, no, lui è così, c'è niente da fare, vabbè, però è normale perché è già grandetto, ho capito, quindi è così. vicino, c'ha due cagnoline, capite, ma siete abbagliati, piccoline, sempre in carole, due sempre in volo, annusende e fendi. L'altro giorno l'ho portato giù, una signora mi ha detto, no, non lo porti qua che c'ho la cagna in calore, se no me la salta. Ehi, detto, sarebbe un piacere per Tyson. Cancate piccoline, ragazzi, un braccio, cos'è? Sono due tipo boxer, mi sembra che siano, maschio e femmina, fratello e sorella sono. Fa sempre un bel genita, piccolina, però dovrebbe essere in calore, non intendi, non viaggio, quindi casi sempre che vuole trombare. Filippo, mica c'è Massimiliano, mica lo ci piglia a schiaffi alla broccia, mi. Ma non è se ti intendi guai, che l'altro giorno dal telefono mi sono rifatto la voce, tu mi diciamo a Filippo Massimiliano, addrezzava la recita, dove? Pium, partì a Raiano, non c'è, vedi che qua, no, non vieni, ascolta, guarda, mi che ti saluta. Ti credi che ce ne è dimenticato? Dimenticato, tanto io ho fatto il vento, ma si stava l'ascensore, ventivava l'ascensore, il gatto subito a rivolti, che vogliava arrivare, non lo mollava, veniva in cameretta, ogni rottura di scatole, cazzo, sempre attaccato era. E a chi lo giugava Massimiliano, un preso? Allora, vabbè, comunque, si fa così. Dove sei arrivato già? Ehi, sono via Luna e Sole, dai. Sto andando a prendere aereo, da lavoro. Ma sono già le 8:10 passate, già va bene. È un bel tratta lì. E siamo qua. Tutta la sera studiando, stavo. Bravo, così mi piace. Sa se sto dietro in branco, se sei per attaccare il barattino, chi c'è qua? Nessuno. Beh, troppo piedi ne hai della situazione. No, manca di niente. Ho tutti i radiali, stamattina li ho tutti puliti, bene, riceviti, niente da fare. I 40 metri è piena di stazionale. Non ci sono bobine, non c'è niente, diretta, non c'è accordo, niente, non capisco cosa sia successo. E quindi faccio solo 10, 15, 20 e 80. E basta, poi 6 metri faccio con l'altra antenna, ma non me la fotti nulla, tanto non la faccio attività, è giusto così a livello locale, a fare due chiacchiere, ma ci migliora le balle, la biglio nella bugo e la conservo. E se non ti un di polo, attacchi anch'io in attesa bari 40 e rivai in attesa di 40. Sì, ho comprato il ballo, me l'ha fatto arrivare il Walter, e dentro il cassetto 70 euro, ballo 9-1, adesso facciamo la longa guai, longa longa, esco in campagna e faccio tutte e 5 bande, anche 6 metri. Sì, infatti. Non c'hai roba a mettere piede, niente, l'aggancio alla mantova e la butto in campagna così, il ballo lo lascio attaccato alla mantova, bello, un bicchiere, 3 kW tiene. Quelli che compra lui, quelli di Polisciuto, 70 euro più barato. Gappa gappa, ma non ne voglio, grazie a attività radio, magari la gente va di stiva, grazie a attività radio, usando vola, oh yeah. Con la birretta vicino, notte ne viene siciliana. Sì, birretta. È sempre stuzzicchiando, facendo, fuoco a tutta volontà, ne ho più voglia di fare radio, due chiacchiere qua, due una, per me la cassa, non me la fotti nulla, però devo averlo, ce l'ho radio nuova, bella, e basta, di questa c'ho la mia completa, quando ne ho voglia, e se no già va bene così. Vai doppio. Cavagala. Da qua come mi senti? Via Luna e Sole da parte mia. Quasi 9, quasi S9. Ci sono i palazzi davanti, perché là sopra per via Luna e Sole dietro. Quasi S9, sì, qua con 140. Cavagala. Natalino, avanti. Eia, siamo qua, ti ascolto bene anch'io qua. Eia, eia, eia, eia, andave, andave. Hola, attenzione, binario 10, cambio. Aspetta che regolo. È troppo alto. Hola, 1, 2, 3, prova. Già va bene, poi il magno esce bene, non c'è problema. E infatti il magno non ha manco bisogno, io non capisco, certi l'hanno modificato, non ha bisogno manco di modifiche perché esce già bene così. Sono modifiche, il magno va bene, ottima radio, l'ho avuta io, perfetta. E prima l'S9 aveva quel difetto dello... come si chiama, frequensimetro, camminava da solo, era allucinante. Il mio a me non me l'ha mai fatto. Poi ho comprato il 980 perché dice che questo difetto l'avevano eliminato facendo il 980, che è uguale all'S9, non è che cambia nulla. No, è uguale, dice che accendo un po' il gas a vedere se funziona. Io ho il macchino piccolino, la macchina funziona bene ugualmente. Fai bene Natalie, ma io qua volevo fare lo sborone e mi ho messo quello grande. Ma io dove me lo metto? Non c'ho posto nella macchina mia, sono io da solo il 3009. Il 3009 ci sta da tutte le parti, lo puoi mettere... aspetta KK, il K del Rosmetro, funziona? Sì, sto andando. Yes, 5 and 9. Bene, bene, la modulazione è sempre buona, sì. E già. Meglio così, andare. E c'è quanti watt sto dando? Ehi, 90 watt. Eccomi, eccomi qua. Era al telefono, dai. Ho risposto al telefono per quello che ho mollato. Ehi, ehi, ehi, sono passato col Galaxy. Già va bene, già va bene. Ma lo Smith a posto te l'ha messo? Sì, sì, tutto a posto, tutto a posto. Tutto a posto, vedi che non era fatto in regolazione. Che c'è una resistenza praticamente andata. Te l'ha cambiata ed è tornato com'è. Perché non è detto che sia sempre la regolazione. Se sono regolati dalla casa, quando è così, può essere un componente che è andato a farsi fottere. Ma appunto, non è detto, infatti. Ma poi io l'ho aperta e ho visto che la resistenza variabile dello smitter è regolata come dalla casa, quindi l'ho lasciata così, capito? E invece è una resistenza. Va bene, interessante che sia tornato come doveva tornare. Perfetto, nuovo di pacca, alla grande. Che bello. E messo sopra il dacchio da un angolo in linea alle altre radio come avevo prima, tanto sono uguali come larghezza, come profondità e larghezza, siccome altezza non è quasi duro d'acqua. Messo lì c'è l'MB più 5 a un angolino, quando mi serve lo tiro fuori e la faccio andare un po'. Kappa. Sì, adesso vediamo da se si riesce a metterlo a posto quello lì. Già si riesce Gianni, già si riesce. Tu devi sempre ascoltare qualche consiglio ogni tanto. Tu con la radio, se te la vuoi tenere, te la metti a posto, ci investi dei quattrini e te la devi, basta, buon finito. Però c'è la radio tua che conosci, a posto, è fatta bene. E adesso vediamo, dai. Andare. Tanto già ce l'ho le radio adesso, che la lì si manda a aggiustare, dai. Allora, la mandi al centro assistenza, ma sai che te la vado ne vede. Non trovata, fatta, testata, capito? E si è a posto. E ti ritorna che è una meraviglia, come era sempre quella radio, perché usciva veramente una cannonata. Bene, veramente. Ma già uscirà di nuovo bene, dai, speriamo bene. Che adesso lo trovano l'inghippo e me la mettono a posto. Ehi, ehi, Tatalino. Sicuramente c'è qualcosa che non fa arrivare corrente ai finali, capito? qualche dialogo, qualche che non sia il finale pilota. Guarda, anche un dialogo che non faccia arrivare la corrente. Tante cose possono essere andate lì, però se non c'è la strumentazione non è che è colpa di Franco che non è riuscito a mettere a posto. Ci vuole banco prova, ci vuole, bisogna testarla la radio, capito? Ci vuole l'attrezzatura per fare le cose. Beh, certo, un tecnico c'ha tutta l'attrezzatura, segue lo schema, vede le tensioni, se non arriva la tensione è quello lì. E quindi è così. Per ogni cosa ci vuole l'attrezzatura adatta, anche se magari ognuno di noi è bravo a fare delle cosettine, però quando arriva il laboratorio, capito, sanno quello che devono fare, non c'è niente da fare. Fanno un test, mettono al banco prova, ecco qua, da qui a qui non passa, e allora ci lavorano, ma così diventi manco, capito, diventi scemo. Senza gli strumenti è un po' difficile se il danno è serio, capito? Ma io penso che sia quello lì, che non passa corrente, cioè non arriva corrente ai finali, ecco perché non ha potenza. Non so che cosa ha fatto Franco, che test li abbia fatto, però ripeto, per poter fare dei test seri e sicuri ci vuole la strumentazione, non venuta la va. Franco, la misurata arriva e finale la corrente, la tali, 12 volt arrivano. E allora se arriva la corrente finale il problema è più serio. No, magari è meno serio. È meno serio. Magari ci vuole il finale che abbiamo preso da Fusano, magari non si adatta e vuole cambiare. Quello lì è, però detto che quello lì, se non li prendi quelli sui, quelli che ci accusano non funzionano, te l'hanno detto. E vabbè, adesso pazienza, dai. Se ci riesco ad aggiustare bene, se no chiudo lo gassolino e ti ricordo il gassolino. Ehi, ma così, datemi 5 minuti e arrivo subito. Ehi. Gianni, è così, quel finale non serviva, te l'ha detto Alessio, e come ha messo l'originale funzionava, quindi doveva comprare ad usare, non vera verso. Lo so, adesso vediamo, là. Adesso ce l'ha un tecnico, vediamo un po' se me lo metti a posto. E se ce l'ha un tecnico te lo buona così, perché lui gli fa tutti i test possibili e immaginabili. Se vede che il finale non funziona, gli cambia, gli mette il finale suo e vedrai il tempo un appoggio. A chi più di esso non è se arriva la corrente, vuol dire che il finale che non sta funzionando. Oh yeah! Chi è che mi chiama? E insomma, come pubblici vecchi, Nico, sempre il solito. Attenzione, lupo grigio, se ascolti il doppio rum che chiama, gammi. Gamma 100, dai, sono in movimento in macchina ma ti ascolto. Benissimo, questo che sono nella strada che porta al monte, quella strada nuova che hanno fatto, dai, non mi ricordo che via è. Verso il monte, dai. Dico, va bene, ricevuto, io sono appoggio roccata, quindi vuol dire che comunque ci stiamo a comunicare. Cappala, io sono già arrivato, vi saluto tutti cordialmente e devo chiudere perché adesso vado a portare giù il cane e chiudo, là. Sentiamo, ciao Natalino, ciao Lupo Grigio, ciao Claudio, se rientra me lo salutate da parte mia, dai, se non rientra. Cava cava. Ci sentiamo, dai, buona serata a tutti, poi continuo QSO, doppio rucco RT esecutivo. Cappa, ciao già, là. Buon proseguo, buon tutto, anch'io ne approfitto per salutare tutti e me ne passo in QRT. Ciao a tutti, QRT per me. Ciao Natali, ciao. Thank you. stava acceso, ma come diceva qualcuno, come c'era un deserto. Mi ti sento lontano a chiamare, sono venuto a salutarti. È già pronta la cena, quasi. E allora, andiamo giovedì? Giovedì non lo so. Decidano loro, per me non c'è problema, io esco, sto arrivando a casa verso le 6, dai. Sì, andiamo, già d'accordo, Anna con Anna. Andiamo, se riusciamo a prendere una boccata d'aria, se no ci vedono dei moroni. Io ora ce ne sto cumigliando un bel, mamma mia. Sono caldo, oggi ha fatto caldo, Oggi sì, anche qua ha picchiato forte, lo so fra, vabbè, pazienza, tempo suo dovrebbe essere, dai. E lì anche tu c'è un po' d'aria, oggi noi eravamo in mezzo a una specie di trincea, dai, non c'era un filo d'aria, stavamo bollendo anche i piedi, ogni tanto cercavo ombra per i piedi, per le scarpe. Sì, qua se si stava bene, c'era un po' di vento, venticello, però non era vento freddo, vento fresco, era un po' di vento caldo. Vabbè, è ancora nuda, questi ragazzi siciliani dell'impresa, è ancora nuda, voi diciamo siamo a 27-28 gradi, qui può arrivare anche a 40 gradi tranquillamente d'estate. Sanno picchia, troppo in anticipo. Poi camminando lì sopra la ghiaia riflette tutto il caldo, te lo butta addosso, il ferro inizia a bollire. Tu figurati, quando l'aria, non so, è a 30-40 gradi, metti il termometro sulla rotaia e arriva a 60-70. Sì. Scalda un bel. Controlliamo le temperature per fare poi una media, per fare le regolazioni termiche, capito? Bisogna sapere se la temperatura della media sta aumentando la Sardegna, quindi ogni tanto prendiamo le temperature. Vabbè, dove siete? Che zona siete? Siamo un paio di chilometri più giù di Olmedo, andando verso Alghero. Ah, sì, quella zona nuova. Più giù, non è certo abitata, però più giù. Lì è tutto campagna, dai. Praticamente c'hai muro da una parte, muro dall'altra, noi siamo in mezzo. Figura di Lughello, di me. Oh, yeah, vabbè, dai. Pazienza. Quindi, d'accordo per giovedì, allora. Adesso mi dà la conferma, Anna, che io non neanche lo sapevo, vedi. Sì, giovedì sera andiamo. Giovedì sera, già contattato. Almeno usciamo un pochino, perché c'è l'aria a casa, ne approfitto, capito, per Filippo. Ah, capito, quindi non viene l'aria? No, l'aria no. Quindi vabbè, pazienza, dai. No, l'aria esce alle 4, 4 e mezza, se ce la fa. Quindi è stanca, lei cena, tranquillo, lascio la cena pronta. Se no si ordina le pizze, si ordina la pizza anche lei, ma sta a casa, bisogna di rilassarsi, e se no rientra tardi, rientriamo tardi, capito, lei alle 10, 10 e mezza già a letto, si alza alle 5 e mezza la mattina, alle 6 meno un quarto. Lo so, anch'io non sto andando, ma adesso verso le 6, dai, 6 e 20, preparo tutto, colazione, il pranzo, anche perché sto mangiando fuori, mangio con loro, quindi a volte mi preparo qualcosa da casa. L'ho fatto per anni, io lo so cosa vuol dire, sono grandi sacrifici. Per quest'anno sarà così, forse passeranno anche quest'anno, questi non ce la fanno a finire entro l'anno. Quando si inizia poi non sa mai com'è la situazione. Ascolta, sto andando con Saturnecco, va bene, ottimo. Benissimo, segnale buono, la radio forte. Segnale buono? Sì, per questo Smith diciamo che è buono, però già lo sai le mie condizioni, quali sono? Sì. KK, io ogni tanto lo facciamo andare, se no poi si guasta, capito? Intanto è sempre acceso, però ogni tanto lo commuto l'antenna, c'è l'antenna attaccata. C'è il commutatore A4, quello della T250. E ogni tanto lo facciamo andare, se no poi si rovina. No, va bene. L'altro giorno ho trovato un mio amico, che è anche radioamatore di Alghero, lo conoscerai sicuramente. E lui ha un K 450, può essere 450, esiste? Sì, TS 450, sì. È contentissimo, non gli ha mai dato problemi, ha detto mai cambiato qualche cosa con il settore, non mai fatto nulla adesso. No, beh, il 450 problemi non ne ha rispetto al 440 perché è un semidigitale, è una macchina diversa, capito? È a schede, non crea problemi di VCO, di niente. Mentre il 440 è meccanico, quindi ti crea problemi di VCO, ti crea problemi, un sacco di problemi, però se tenuto bene non ne crea problemi. Ma no, è contentissimo. Beh, ce l'avrà anche parecchi anni, non so quando sia uscito questo 450, ma sarà anche, penso, una ventina d'anni, no? Guarda, è uscito subito assieme all'850, quindi stiamo parlando forse del 95, quegli anni 95, 97, 98. E quindi abbastanza datato. Dato che non ha bisogno di filtri né niente, né... contento, mi è sembrato contento della ferita. Il microfono però c'ha un MC, forse 80-85, può essere. Sì, c'è l'MC60, l'80 e l'85. Va bene, sono ottimi i microfoni sempre che ha fatto la Kenwood. Io ripeto, li ho usati tutti, però il top del top è sul Kenwood dell'MC60, non ce n'è per nessuno. Sì, è quello che non è quello che è più usato, è quello che spinge di più poi. Sì, ha una caratteristica diversa, una timbrica diversa, è bello esteticamente, poi lo metti su tutte le radio. Io ad esempio ho un MC60, ho l'MD100 della Yaesu che è uguale all'MC60, però non ha un'amplificazione. E sull'FT920 io ho l'MC60 che spinge, che è una meraviglia in banda laterale, più dell'MD100, più del microfono suo che costa 240 euro, e dentro la scatola. È nato bene questo microfono, me ne accorgo, quella è una bella modulazione, bilanciata, bella, corposa, forte, potente. Sì, a me mi ha sempre dato ottime soddisfazioni, fra, quindi preferisco sempre quelli. Ce li avevo tutti, li avevo tutti dati assieme alle radio e poi me li sono ricomprati e ne ho di nuovo 4, figurati, ce ne ho di nuovo 4, mi ci sono, uno per ogni radio, capito? Tra l'altro uno è anche inutilizzato perché l'avevo collegato al 140 di Valerio, ma il 140 di Valerio è venduto, quindi l'ho staccato, l'ho messo da parte, quindi ne ho anche uno di scorta di MC60, ma non l'ho perché è un casino, capito? Poi non lo trovi, trovate nel bagaglio la carina, io li ho pagati 90 euro l'uno. E magari sono tutti aperti pure, riflettori, meglio tenersi quelli che conosci. Valerio non entra più? No, siamo sentiti anche oggi al telefono, non entra più, no, non ne ha più voglia, se le viene la voglia già ce li ha le radio, c'ha il Magnum, c'ha il 7009 modificato, c'ha il 48, c'ha un bellissimo amplificatore, gli ho venduto tutto, 920 me lo sono ripreso io che era il mio, entro la scatola, nuovo, mai usato, me lo sono ripreso io, il 140 gliel'ho venduto, l'amplificatore della Yaesu gliel'ho venduto, l'ho venduto a Roberto, insomma gli ho avuto un bel po' di roba, dai. Sì, mi ricordo dalla macchina usciva anche il forte, aveva quella radio da combattimento, aveva. Ma lo Magnum a Magna? Si va a farmi, ciao Lu. Lubagno, Giammania nel Lubagno, ciao Lu, buonasera, ben ascoltato. KK, rientrateci. Positivo, dai. Ho fatto venerdì, sabato, domenica, lunedì, e sono entrato oggi. Ah, va tu, il torneo alla Teroce. Allora, mi sono andati al mare, ciao anche a Franco, mi sono andati al mare ieri, ma come voglio molto la protezione, se no metti me lo fatta le mani, Sant'Antonio mio. Mi ero arrostito meno, meno male, la 50 l'ho dovuto mettere. Cazzo Marina, vola a me di cinghiale, va. Ciao Lu, anch'io sono andato al mare ieri, riprendi qua. Ma io non ho bisogno di andare al mare, io sto già prendendo colore. Tra fuori, a rasare erba, invece sfogliando, piazzando e facendo, gioco sempre tutto arrugliazzato. Però già ci andiamo, già ci andiamo. E io invece sei cuocuomane, fallisso. Allora, i cuocuomani si bruciano prima dei pelivella. Allora, sei drogato, è per quello che sei tutto nero. e allora diventano neri di assate. Invece d'inverno rimangono bianchi perché fanno il sole, poi con la droga rimangono sempre bianchi. Specialmente vicino al naso lì sono sempre impolverati di bianco. E allora, che è tutto impollinato sì, nel naso, cuocomane, ti ho visto mi, ma ti credi? Cacciavi il coso, invece c'è stato infilato nel braccio. Ma non era cacciavite? No, io ho nel match 60, ho piccato nel braccio, stava facendo il vaccino. Mi sembra Natalino che usa lo cacciavite, io uso le match 60. Ah no, per rimanere in tema, allora. Fu che ti ho mandato una foto su WhatsApp, ma con riposo mai, allucinante, ragazzi. Una scienza, sì. Vuol dire che non è arrivato, Lu, non è arrivato, già rispondo io sempre. Vuol dire che non è arrivato perché se secondo quando me l'hai mandato era bloccato WhatsApp, non prendeva una mazza, niente. Invece in questi giorni sta prendendo. Ma se l'hai visualizzato mi dà verde a me. L'ho guardato e non ti ho risposto. Lu, perdonami, magari mi hanno distratto. No, magari ti dovevo rispondere e non ti ho risposto, ma già l'ho visto, quello che mi hai. Quella cosa della radio. Capisci che l'hai visto? Sì. Infatti ti dovevo rispondere. Però Lu, c'è sempre la motivazione che tu sai. Non venuto da là, io devo vedere perché ci sono delle fottiture su quelle radio allucinanti. Ah vabbè, adesso rimani in chibi. Cioè, vedi, io adesso Antonello domani le consegno 140 di Valerio, però so che era il mio, Valerio l'ha usato bene, anzi niente, l'ho controllato, ho fatto tutto controllare da un'altra persona, ed è perfetta, gliela do tranquillo. Se tu andi a comparare eBay, io ho preso vinculatami, io anni fa con un 440 è arrivato a casa in tre settimane ha funzionato, tre settimane, dopodiché puntini, puntini, puntini. Mandato a Bianconi spese 180 euro. Vabbè. È un casino, senza provarlo. No, ma il problema è che devi comprare da chi sai che veramente queste radio le ha prese, le tiene bene. Perché guarda, io ne ho venduto tantissime, tu immaginate Antonio Pomponio, i 80 che gli ho dato io, cazzo l'ha tenuto 10 anni e poi se l'ha venduto, sempre funzionante, sempre. Tutte quelle che ho dato io ne avrò dato una ventina, e ne ho fatto avere altrettanto, non mi hanno mai detto ba, perché è così, capito? No, però secondo la che compri ti biglia baruguru. Lui, tu sei peggio di me, la mia volta prendo le macchine, mai c'hanno qualche problema, le sistemo e poi me le vendo. È così, le macchine non le va a vedere, macchine faccio la storia, ne ho avuto tantissime, però poi mi sono calmato. Le radio sì, ce le ho, le do, le riprendo, le faccio, però mi stanno rientrando tutte le mie mi stanno rientrando, capito Fra? Sì. Io lo so che tu hai, sai sempre compra, vendi, compri, vendi. Poi intanto poi ci ripensi e ritornano a casa, dai. Ma sai cioè, cos'è? Non c'è più sugo. Freddo c'hai, cazzo! Al contrario vai, l'inverno di buoni sopra e richiudi buoni sotto. Cioè, alla fine siamo d'estate. Ho la copertina si è messa, come dei colmi. Ok, si è messa sopra o sotto? Allora, d'estate, d'inverno si mette sopra le copertine, sopra. Adesso che c'è caldo c'è so coperta, ma te ne ricordi? Al contrario io. Ma non mi ci vendi, perché sei sotto? Mi è puntato a me. Ma ti stai guardando il Cagnesco? Allora, sì, mi sta guardando in forma di Cagnesco. Dai ragazzi, io riprendo e vi lascio che è pronta la cena. Ci sentiamo. Ciao Franco, di Loranna Fra, ma siamo già d'accordo per giovedì. Ciao Luca, ciao a tutti, ok? Ciao. Ehi, ciao Fra, buona carica, buon tutto. Saluta il resto della ciurma. E a giovedì, allora, avanti. Ciao Fra, alla prossima. Ok, detto Luca? No, stavo ascoltando un messaggio, scusa Fra, stavo salutando a Claudio io. Cazzo, adesso inizia il caldo. Stavo ascoltando il telegiornale e ha detto che arriviamo a punte di 35 gradi anche. Io già stavamo boccheggiando oggi, che ancora poi ci siamo abituati. Ieri ero al mare, un po' di arietta c'era, si stava, anzi addirittura sotto l'ombrellone all'ombra sentivi un po' di frescura nella parte all'ombra. Ma che non mi piace a me, non mi piace, bello il posto, sì, ma il mare è l'acqua troppo fredda, oh, no, no, no, no. assolutamente. Se vado lì è perché vado a prendere il sole, boh, ma non a farmi il bagno. No, ieri neanch'io, ieri, guarda, già arrivando al bagnacciuga, senza toccare l'acqua, quindi, già la sabbia umida era ghiacciata, eppure c'era gente a bagno, rimane, ma come cavolo fanno? C'è stato il break, allora, siamo andati a Pasquetta lì, perché Pietamugoni, sì. Ciao, stranieri a bagno, l'acqua ghiacciata, loro sono abituati, avanti il break. Buonasera a tutti. Caro me, buonasera, basso sì di radio, come mai? No, sono in orizzontale, sto provando il polo, testa a vedere come esce, con le 9.40, mi sentite comunque, dai, già qualcosa. Sei sul più del più 30. Addirittura? Sì. No, quasi, Santiago 2. Allora Luca, a te ti ascolto 9 più 20 come con l'antenna verticale, Franco invece l'ascolto 5. Sì, qua il segnale 2, questo, la radio è un po' bassina, no? Radio 2-3. Sì, la radio è un po' bassa, confermo, no, sul più sei robe, cioè il più poi il 3, sei lì in mezzo, là, tra il più e il 3. Ma la radio non è distorta, questo è il 9.40. No, è bassa, non è distorta assolutamente, è bassa. Non è 5, è un po' bassina come radio, in confronto a quella di Franco. Ciao, c'è qualche un altro qua. C'è qualcuno avanti. Sicuramente è orientato verso di te. Sì, questo è verso il coso, per la zona di Luca, l'orientamento è lì, infatti per quello lo prendo in pieno a Luca. Sì, no, arrivi bene Robè, cioè il segnale è buono, abbastanza buono per essere con un dipolo, mentre la radio è un po' bassina, va bene comunque, dai, già, non è che non ti ascolto, in confronto alle altre volte sei un po' basso, avanti Robè. No, era soltanto una prova, volevo togliermi un ospizio per vedere se funzionava il giocattolino stazionario e quante 1 e 2, 1 e 3 con questo, dai, posso parlare un po' di più. E non vanno bene. Sì, vabbè, non è nato per queste cose, per questa frequenza, è nata per altre cose. E comunque ho visto che riesce a funzionare, dai, accordando, magari non ti sta dando tutta la potenza dell'apparato, quanti vatti ti saranno ristabili. Stiamo parlando di una ventina più o meno. Comunque Robè, sei abituato sì, alle frequenze alte. Ma Luca, io ti posso dire una cosa, mi manca sempre la 27, ma molte volte ho acceso, quasi mai c'era gente. E anche il 525, il 144, cioè, Pogaie. Di lì mi diverto perché sto facendo tutto il mondo ed è una bella soddisfazione, mi stanno dando rapporti bellissimi, molto considerando che sono questo di filo, ti ripeto, non ho niente di importante, non sono paragonabile a quelli grossi, la chiamatori che conosci tu. Eppure, cazzo, mi ascoltano da tutte le parti, mi ho fatto una marea di diplomi, ormai mi conoscono i dubbi. Sono arrivato su 1600 e passa 80esimo, l'altro stamattina mi è arrivato quest'altro diploma 28esimo e su 1000 sono arrivato. Allora va bene di lusso, Robè, fai, certo che lo puoi fare, l'avrei fatto anch'io, ma purtroppo non si può fare, ma comunque già va bene così, dai. Comunque sia, io ascoltavo sempre l'inchinazionale, non esiste più. No, ma penso che hanno buonato che cambia orario, che questa non mi piace, aspetta, vado sull'altro. No, mi sa che non c'è più, perché il ponte non risponde più. Prima davi un colpo importante e sentivi il ponte che funzionava, adesso invece non sta più andando. Perché c'erano pezzi di... stronzi che offendevano, entravano la mattina per farsi due chiacchiere, quelli là, e poi entrava questo qua sempre sotto voce, ruttando, oppure mettono registrazioni, c'è da fare, se non va bene.